Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, riparte una settimana, caro Oscar Giannino. Eccoci qua, caro Alessandro Milan, cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon San Giovanni della Croce, la Leopolda della Croce è stata questa volta, la sesta edizione, e anche a Napoli ci sono però i fedeli di Sant'Agnello, per i napoletani, un saluto ai napoletani, che però un po' ci deludono in questo campionato, vabbè, chiusa parentesi. So, anche tu sei di quelli che speri nel Napoli per non dare lo scudetto alla Juve, all'Inter. Anch'io. Ci accontentiamo. Però mi pare che comunque torniamo alle cose più serie. Ma speriamo e continuiamo a sperare. Già, continuiamo a sperare. Seria anche questa. Allora, una Leopolda dimessa, diciamo così. Ma oddio, dimessa, un Renzi arrabbiato. Arrabbiato, però insomma, voglio dire, inizia a parlare di sempre i prossimi 20 anni, propongono i titoli peggiori dei giornali, che sono cose di solito che quando facevano altri loro insorgevano ridendo, sicuri di sé, non sono più sicuri di sé. Sì, questa cosa dei giornali, devo dirlo, poi appare e rischia di apparire per una difesa di categoria, cosa risulta insopportabile, perché non c'è una categoria che va difesa come quella dei giornalisti. Però sì, è una cosa un po' di basso profilo, di basso livello. Insomma, io trovo interessante che Ferruccio Del Bortoli abbia twittato sulla brutta faccia dicendo: vabbè, facci i tuoi titoli, mandaceli per WhatsApp così. Ferruccio Del Bortoli, non stiamo parlando. No, è chiaro che Renzi non è l'aspetto principale della Leopolda, ma Renzi che se la prende con i titoli dei giornali, votata il peggior titolo di giornale, non è una bella cosa. No, e poi soprattutto questo tono di cui non si risponde nel merito, ma si fa parte delle vittime di fronte a i legittimi dubbi che vengono sollevati sui coinvolgimenti di parenti di membri del governo, cosa che avrebbe in qualunque paese democratico per qualunque componente del governo, non possono essere liquidati con disprezzo dicendo: voi speculate sui morti. Su questo sono assolutamente d'accordo, cioè si può democraticamente parlare del fatto che il padre del ministro Boschi, il fratello del ministro Boschi faceva parte della Banca Etruria, ma facendo un dibattito senza puntare l'indice accusatorio verso nessuno, invece non se ne può parlare. Cioè questo. Tra l'altro Renzi appunto ha detto questa frase, no? Del mi fa schifo chi strumentalizza la morte, sentite qui. C'è un punto che voglio dire concludendo, anzi due, uno umano e uno politico. Quell'umano è che chi pensa di strumentalizzare la vita delle persone deve fare pace con se stesso, ma chi pensa di strumentalizzare la morte delle persone personalmente mi fa schifo. Mi fa schifo è forte. A me fa orrore questo modo di procedere, posso dire? E l'applauso è un applauso che indica debolezza. La Leopolda applaude. Ci sono segnali inequivocabili. Quando il potere si autoconvince che le critiche su vicende come queste, in un mondo così pieno di collusioni come quello tra banche, politica e regolatori, siano figlie di orrore e schifo, usare questi termini, beh, a me colpisce molto, perché vuol dire che già si è depositata su questa carica di rottura, di innovazione, che è stata la grande forza di Renzi in quel vecchio mondo che era il PD e la politica italiana. Oramai si copre degli stessi difetti consustanziali della politica italiana, cioè credere anche di fronte a cose eclatanti. Qui siamo di fronte a un sistema bancario con le regole che non funzionano, i controllori che adesso propongono di fare quello che nelle loro carte c'è scritto che avrebbero già dovuto fare, tanta politica, troppa politica nelle banche, compresi i padri, i fratelli e i signori di cui stiamo parlando, e non si può parlare di questo, se no diventa lo schifo. Bah, insomma. Tra l'altro 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta se volete dirci la vostra, anche se avete seguito la Leopolda, se avete un'opinione insomma di quello che facciamo. Un altro esempio, scusa, l'apertura del giornale di oggi vedrà, sì, la procura, non voglio dire di no, l'apertura del giornale di oggi dice che c'è un'inchiesta della procura che nasce da un'indagine della Consob, perché all'inizio del giornale scorso, quando si attendeva il decreto legge del governo, giusto, che io ho sostenuto, per la trasformazione giuridica delle più grandi popolari italiane, prima del decreto i titoli di quelle popolari, di tutte le popolari, ballavano molto. C'era chi, sapendolo prima, investiva, e nella ricostruzione di chi ha investito c'è un'indagine che dalla Consob passa alla Procura che riguarda una delle finanziarie di Carlo De Benedetti. Questa è l'Italia. Fa schifo avanzare i dubbi? Non lo so, non è chiaro. Poi il giornale lo mette in prima pagina e si vedrà. Si vedrà su questa vicenda. L'accusa è di aver fatto una plusvalenza sapendo delle notizie prima. Questo almeno è ma ripeto, che il giornale, che il giornale è usa perché finanza. È contro De Benedetti, sì. Ma ciascuno però deve dire il suo, anche perché, ripeto, se diciamo a milioni di risparmiatori italiani che la Banca d'Italia si sveglia adesso quando nei documenti ufficiali Consob e ABI quei titoli non andavano venduti ai risparmiatori ordinari, c'è scritto da anni, il nostro mestiere secondo me è fare delle domande. Vabbè. E va bene, ma sulla vicenda della Boschi poi, visto che se ne può parlare, perché è una questione di... Allora, c'è Saviano che chiede le dimissioni, forse questo è anche un po' troppo, non lo so, non ho un'idea, cioè l'idea, molti dicono, ma come, debbono ricadere le colpe, le eventuali colpe di padre devono ricadere sui figli? Questo no. Il ministro Boschi dice, quando si è firmato questo decreto io non c'ero, peraltro sappiamo che ha detto ero impegnato, insomma non ha partecipato al consiglio dei ministri in cui si è firmato questo decreto per salvare le banche. Decreto, anche qui, salvare le banche, no, è stato comunque giusto? Non salva le banche, è una, la sostituzione della vecchia liquidazione coatta, nel senso che spazza via gli azionisti, dà continuità ai depositanti in forma nuova liquidando il decreto, quindi salva banche, salva anche se fossero salvati gli azionisti, è un liquida banche. Liquida banche, dice. Beh, salvare anche i posti di lavoro di chi lavorava, esatto, in queste banche. Chi lavora e dei depositanti, quindi, però la banca in quanto tale, cioè gli azionisti vengono spazzati via, quindi capisci. Ah, su questo sì. Però lei dice io non ho firmato. Non l'ha firmato. Non c'ero, basta questo? No. Non basta, perché la democrazia è una cosa singolare che pretende trasparenza. Cioè, siccome il padre della Boschi è vicepresidente di quella banca commissariata sotto due mandati presidenziali, sia quello di Fornasari che quello del successore Rosi, caratterizzati da sovraffidamenti, incarichi a molte delle cooperative, lui è stato presidente di cooperative per anni e i sospetti sono che la banca tra l'altro sia andata per aria proprio perché dava troppi soldi a questo sistema colluso. Ecco, il papà della ministra non è esattamente un amministratore qualunque di quella banca, è uno su cui gravano molti sospetti di indagini in corso, si vedrà, e quindi il ministro secondo me deve sapere che su questo è tenuto a un sovrappiù di trasparenza, non semplicemente dire non ho firmato il decreto. Tra l'altro, diciamo, è comparsa un po' all'ultimo momento, no? Prima non si è mostrata la Leopolda, poi quando è arrivata così, Oscar, senti, no? Quando è arrivata Maria Elena Boschi, credo. Grazie davvero, grazie mille. Oh, finalmente ci sono e mi scuso per il ritardo. Anche perché ho letto in queste ore un sacco di ricostruzioni molto fantasiose, alcune veramente divertenti, sul perché non fossi qui con voi. Le ricostruzioni fantasiose, vabbè, cioè l'accusa era non si presenta perché non vuole parlare della vicenda, cosa che peraltro non ha fatto, perché non è che alla Leopolda uno va lì e viene interrogato da un Marco Travaglio, no? Diciamoci la verità, questa versione della Leopolda ha ragione chi l'ha definita una specie di cenone di Natale uscito male del governo. Convegno, le domande fatte ai ministri erano ridicole. Padoan, con la crisi delle banche in corso, le quattro banche, questa versione che cambia di giorno in giorno, tu non ti sarà sfuggito che il caos è ancora elevato. Prima mi hanno detto il governo che l'arbitrato andava alla Consob, in 48 ore ho detto no, la Consob, si sono resi conto che la Consob è al centro dei sospetti. Sì, che la Consob, sì, certo. No? E così via. Quindi siccome cambia, prima avevano detto no, il fondo verrà finanziato in parte dal denaro pubblico, in parte dalle banche. Poi domenica scopriamo no, sono solo le banche. Allora, che di fronte a questo gli abbiano fatto quelle tre ridicole domandine a Padoan, esattamente come ridicole erano le domandine fatte alla Boschi. Questa è la prima volta che ho visto una Leopolda in grave difficoltà. L'innovazione oramai batte in testa, non per usare c'è, un termine. C'è, no, dici. C'è ma batte ma in testa. Ma io dico che non è in quella sede che bisogna, aspettarsi le domande dure. Innovare la rottamazione dure. Avendo Bassanini seduto in prima fila. Vabbè. Ma dai. Infatti l'hanno fatto notare sulla stampa. Sì, dice, sì, abbiamo abbattuto la gerontocrazia europea. In quel momento appare Franco pezzo Bassanini. Pezzo di Jacoponi sulla stampa. 45 anni, per carità, poi adesso Bassanini sembra identificato come il male assoluto, no, però è chiaro che strideva molto l'idea di abbiamo ringiovanito con la presenza di un Franco Bassanini, per esempio, consigliere di Palazzo Chigi. Tra stampa e potere ci sono anche cose singolari. Ieri sera Report, per la prima volta una grandissima azienda italiana abituata molto a comandare nei media come Eni, ha fatto questa innovazione che rispondeva, non è andato a farsi intervistare dai giornalisti di Report, ma rispondeva in diretta con una raffica di tweet di Bartazzi, il capo dell'informazione, e c'era tutta una scia di colleghi che dicevano viva Leni che dà finalmente una lezione al Report. Posso dire, la mia opinione è no, quella è veramente la casta giornalistica. Cioè, secondo me Report parte con servizi attesi, lo sappiamo, talvolta sì, uno va a rendere le interviste, poi se non è soddisfatto in diretta replica, ma fare la controcosa, la contro intervista, la contro, la contro inchiesta. I difetti di Report non devono far sparire i difetti di Eni, che nei giornali italiani molto spesso, lo dico con un grande rispetto per quell'azienda, è abituata a comandare. E questo è difetti del giornalismo potere in economia in Italia, questa è la radio del sole, diciamolo però. Allora sentiamo che ci dice Marco da Brescia, che ci chiama all'800240024. Marco, buongiorno. Buongiorno Milan e buongiorno Giannino. Buongiorno. Un flash brevissimo, la risposta corretta a quello che ha detto Renzi ieri alla Leopolda riguardo il fatto che gli fa schifo, no? chi specula. A me fa schifo quello che dice, quello che fa questo governo ipocrita, e quindi a me fa schifo una risposta del genere. Fa schifo che ci sia tutta questa ipocrisia, che leggevo, oltre a tutto quello che abbiamo appreso anche dai giornali relativamente al papà, dirigente, vicepresidente e quant'altro, sicuramente colluso, forse è un termine, un termine troppo grande, vediamo. Adesso lei ha già dato tutte le sue idee, sentenze, Marco. Vedremo, però leggevo ancora ieri in rete che ci sono ancora delle interessenze o comunque dei contatti fra Rosi e una tale società, non mi ricordo come si chiama, Party SRL, in cui c'è dentro la mamma, sì, la mamma di Renzi, quindi papà di Renzi. Vedremo anche qui, Marco, di Renzi ha detto non è vero e querelerò tutti, e bisogna vedere, insomma, però, quindi... Non è mai vero nulla e questa è l'ipocrisia che fa schifo. Va bene, questo è il suo giudizio, Marco. Io dico anche attenzione a non trarre delle conclusioni prima di vedere le vicende. La nostra linea è sono legittime, insomma, tutte le domande. Le critiche, esatto, le critiche sono legittime, però arrivare a dire che è così, non lo sappiamo che è così. Però forse è il momento di dare gli Oscar, anche perché io oggi voglio dare un Oscar, lo dico a te Oscar, e lo do a un altro Oscar. Ma perché oggi... Ragazzi, Oscar Farinetti, ma non hai letto l'intervista all'Unità? Sulla Leopolda ha detto nell'elenco delle cose: qui alla Leopolda dobbiamo pensare ad allungare la vita degli umani su questo pianeta. Giuro, è il mio progetto durare. Questo di... Ma è il progetto del governo? No, Farinetti. Come no? È suo. Per ristabilire un rapporto terra-cero-acqua. Poi ha detto che Renzi ha fatto delle cose meravigliose e vabbè, questo lo sappiamo. Farinetti soprattutto ora deve concentrarsi sui rapporti umani. Abolire la guerra. Cioè, tu vedi la gestione dei 16 punti di stroll di Expo senza gara, che cosa ti fa dire? Perché gli è stata affidata senza gara. Ecco. Neanche uno mi ha detto: ma di chi è, di scientologi? Ti fa dire questo è altro. Ti fa dire che Cucun, il governo, abolire la guerra e vivere più a lungo. Beh, che sarebbe straordinario. Cioè, se Oscar Farinetti ha la ricetta, io gli do l'Oscar preventivo per sempre. Per sempre. Sulla fiducia, per così dire. No, vabbè, un governo cucun, per così dire. Sì. No, però guarda che secondo me lì si tratta di riconoscenza da parte di Farinetti. Io non voglio insistere su questo tema. Vabbè, però può essere, non lo so. È una, tra lungimiranti ci si indenta e ci si dà una mano. Io devo attribuirmi Oscar molto rapidamente. Ieri, secondo me, aveva molto ragione Luigi Zingales, articolo pubblicato sul Sole, e i due articoli di cui oggi c'è il seguito su Repubblica, ieri c'era il numero 1, oggi numero 2, lui e Alessandro Penati. Io direi che queste sono tra le migliori cose che ho scritto di economisti indipendenti, in cui c'è scritto tutto sui conflitti di interesse dei regolatori italiani, Banca Italia, Consum, e sulle connivenze, diciamo così, tra politica e sistema bancario italiano. Devo dire che anche ieri, che è partita la controffensiva delle banche, che oramai dice: ma tutti questi risparmiatori sono poche centinaia, forse 1000, ma il pensionato che si è ucciso, ma l'aveva comprato sul mercato secondario. Cioè, c'è questa controffensiva che tende a negare il problema, che non è solo relativo alle quattro banche. Questa cosa da giornalista non mi piace, bisognerà che noi siamo un pochino più taglienti anche noi nel fare indagini, visto che chi le ha fatte in questi anni veniva messo alla porta. Allora, caro Oscar, tra poco noi due maschietti parleremo di maternità. Lo faremo anche con due donne, faremo parlare loro, perché di recente, soprattutto nei giorni scorsi, è stata un appello da parte di alcune donne, tra l'altro non qualsiasi, donne di Se non ora quando, un tempo si sarebbe detto femministe, donne di sinistra, che hanno fatto un appello a dire: la maternità surrogata, o se la vogliamo chiamare brutalmente utero in affitto, cioè andare da una donna che porti avanti la gravidanza e poi mi dà il figlio, questa cosa no, è un limite, è un limite davvero che non si può superare, è sbagliato. E allora è nato il dibattito, no? Perché donne di sinistra che dicono questo no, ha fatto nascere questo dibattito. Ne discuteremo tra poco, anche con voi ascoltatori, se volete, con due ospiti. State con noi. Siamo qui, caro Oscar, alle 8:37 minuti. Eccoci, allora, tornati. Vogliamo sentire un ascoltatore, Pietro da Pistoia, che ci chiama sempre, immagino, sulle banche. Pietro. Sì, sì, ecco. Buongiorno e complimenti per il programma. Allora, voglio dire velocissimamente una cosa. Sono state fatte molte ipotesi su ciò che il ministro Boschi poteva sapere o meno della Banca Etruria, ma una domanda. Il ministro o suo padre o il fratello o anche il presidente del Consiglio stesso hanno per caso sottoscritto le subordinate della Banca Etruria? Se fosse così, allora veramente non sapevano niente. Beh, uno non è che è obbligato a sottoscrivere, però questa no, non è obbligato. Però, comunque, però sono lei molte dice... le cose che non sappiamo, per una totale disclosure, cioè chiarezza. Anch'io avrei apprezzato una posizione diversa, cioè dire molto chiaramente, siccome l'ipotesi, qui ci sono delle indagini in corso delle procure, tra l'altro non è che me le invento io, ce le inventano i giornalisti cattivi, e che il vicepresidente Boschi in due mandati abbia avuto parte in sovraffidi di parti correlate, cioè di società in cui stavano consiglieri amministrazioni della stessa banca, senza rispettare i limiti degli affidamenti nelle parti correlate relative appunto a questo mondo delle cooperative e così via. Ecco, saperne di più da parte del ministro, secondo me, sarebbe stato apprezzabile. Esatto, trasparenza, questo sì che non niente di più e niente di meno, trasparenza. Comunque, caro Oscar, allora parliamo un po' di maternità. Tu hai seguito questo dibattito che c'è sulla maternità surrogata molto appassionatamente. Se io dico utero in affitto, so che già ti fa è brutta l'immagine, no, però è molto fa usato capire, da coloro fa che capire. Dicono lo fate solo perché c'è chi ha fame e per soldi farebbe tutto questo, diciamolo, no, è anche per capire, cioè ci sono coppie che vanno in paesi dove la maternità surrogata è consentita, non so, l'Ucraina per esempio è uno di questi paesi, sono 15 quelle in cui esatto è e in cambio di denaro, in genere in cambio di denaro, pagano una donna che porta avanti la gravidanza al posto della donna, e poi una volta che nasce il bambino o la bambina affidano questo bambino alla coppia che è andata da loro e che pagando in genere ottengono in cambio questo bambino. Allora, prima che cominciamo, sì. Piccolo grato cenno al fatto che ieri Corriere della Sera ha fatto un articolo, esatto, di formazione giornalistica, una pagina intera, facendo vedere come nell'Italia, dove questa pratica è vietata dalla legge 40, anche su questo i giudici ognuno la pensa a modo suo, sì, per chi è andato all'estero a fare quello che dicevi. No, ma il dibattito poi si è rinvigorito nei giorni scorsi, perché alcune donne di Se non ora quando, alcune donne considerate di sinistra, come ho detto prima, si sarebbe detto femministe, non lo so se poi questo termine è poi pro proprio o no nel 2015, però hanno detto beh no, questa pratica è troppo. Per esempio Fabrizia Giuliani, che è deputata del PD, ha firmato questo appello. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno così, a tutti gli ascoltatori. Come siamo, salutiamo Chiara Lalli, che è una bioeticista, oltre che collega giornalista. Buongiorno Lalli e benvenuta. Buongiorno a voi. Allora Fabrizia Giuliani, lei è di quelle che dice no, va bene il desiderio di maternità, ma questo, spingersi a questo, alla maternità surrogata, è troppo. Perché è troppo? Guardi, secondo me non è questione di tanto o poco, ma è questione di che cosa si vuol dire nel momento in cui finalmente la maternità, anche nella forma della surrogazione, prende piede nel dibattito pubblico. Mi spiego, fare un appello come questo, sottoscriverlo come io ho fatto, ha voluto dire specificare in prima istanza il senso che può avere ridurre a merce o chiudere comunque nello spazio di una transazione il momento della gravidanza. E dunque la sottrazione del bambino o della bambina, naturalmente, alla madre che lo ha messo. Non le piace che tutto questo sia sottoposto? Come legislatore, no, al di là del giudizio morale, sì, che veramente vorrei che fosse sgombrato il campo, insomma, non, almeno per quanto mi riguarda, non è assolutamente questo in discussione. È questione di capire che cosa è lecito e che cosa non è lecito, sapendo benissimo che viviamo in un mondo nel quale le barriere sono cadute, viviamo in un mondo globale e dunque non ha senso parlare soltanto di legislazione nazionale, ha senso dire con chiarezza da che parte si sta. Sì, per capire, lei dice se anche in Italia è vietata, tanto viviamo in un mondo per cui uno prende parte, va in Ucraina esattamente, e che vuol dire nella stragrande, quindi è auspicabile per lei che ci fosse una legislazione che lo vieta a livello mondiale? Soprattutto mi piace interrogare, come ha voluto fare questo appello, a interrogare la questione dei fondamenti della civiltà europea. Tutti ci riconosciamo dentro lo statement per cui nessun essere umano può essere ridotto a mezzo, che non è proprio, come dire, un inciso tra i tanti. Allora, questo vale anche per le donne o non vale per le donne? Cioè, io vengo da battaglie, insomma, io come tante altre che abbiamo sottoscritto quell'appello, veniamo da battaglie nelle quali sapevamo benissimo che era parte del pensiero più vecchio e patriarcale, quello di pensare che le donne, da Aristotele in poi, fossero dei contenitori dentro i quali, come dire, contenitori indifferenti, sì, alla crescita del bambino o della bambina. E poi appunto di quel bambino o quella bambina veniva fatto ciò che, come dire, ciò che era indifferentemente da chi lo aveva messo al mondo. Riproporre oggi in vesti nuove e patinate questo discorso appare davvero surreale. Surreale. Però sa cosa mi ha colpito? Se si pensa che poi nel mondo globale chi ha la meglio, il mercato. Ma chiaro, ma mi ha colpito molto, caro Oscar, è che l'appello che ha firmato la deputata Giuliani si chiama, questo appello, Che libertà. E proprio di libertà, tu prima di entrare in onda mi parlavi a supporto invece del perché sì alla maternità surrogata. Questo è un tema sul quale, secondo me, il perché sì e perché no. Io poi da uomo nell'evoluzione della mia vita, avendo avuto un fortissimo desiderio di figli, enormi problemi, insomma rilevanti problemi per averli, condiviso con mia moglie, è chiaro che il punto di vista cambia con l'esperienza, quindi certo. Sono materie che non si spaccano in due con colpi di spada. Tra l'altro ho imparato che da uomo io faccio sempre tre passi indietro, cioè io capisco che siano le donne soprattutto ad avere su questo un rilievo decisionale, di indirizzare anche il dibattito. Queste sono le mie due premesse. Tre, e io ho toccato con mano la drammaticità di cosa vuol dire per tantissimi il desiderio di avere dei figli avendo degli impedimenti di salute di tantissimi tipi, ecco, per così dire. Allora, di fronte a questo capisco chi dice no, il mercimonio mondiale, il racket, lo sfruttamento delle donne povere, siamo tutti d'accordo che è sbagliato. Dopodiché però mi pongo il problema, e il problema che mi pongo è relativo al fatto che sono tutte costrette, sfruttate le donne che di fronte a questa domanda di genitorialità, che per me non è un diritto, io non sono per codificarlo automaticamente in diritto con qualunque tipo di tecnica, si prestano volontariamente, liberamente a queste forse, cose. Ecco, forse, di fronte no, a questo... forse no, però la transazione economica, secondo l'onorevole Giuliani, è un punto già che mette un aspetto molto delicato sul tavolo. È anche vero, lo mette delicato, ma allora in questo caso anche donatori e donatrici per la fecondazione assistita eterologa, allora, farsi in quel caso delle stimolazioni ormonali che durano settimane, mesi, eccetera, eccetera, io comunque sono per un corrispettivo, ma il corrispettivo esaudisce in sé tanto al punto da annullare la carica di libertà nella scelta di chi si rende disponibile per assecondare una cosa di questo genere. Lo dico ponendomi il problema, perché poi avendo visto le ecografie dell'esserino dentro, è chiaro che lì si determina un rapporto di generalità naturale che non si risolve al fatto quando esce non c'è stata l'interazione chimica e neurobiologica. Però sentiamo il parere di Chiara Lalli. Chiara Lalli è bioticista, come detto, e invece ci è sembrato di capire, ha criticato molto questa posizione di no da parte di alcune donne. Perché, Lalli? Ma proprio perché, per quello che dicevate prima voi, o almeno il riferimento alla libertà, io credo che sia il punto principale. Poi naturalmente credo che su alcune questioni potremmo essere tutti d'accordo, penso alla critica, alla condanna sacrosanta dello sfruttamento, dell'abuso, della violazione dei diritti fondamentali, quindi su quel dominio lì penso che siamo appunto tutti sulla stessa linea e dovremmo sforzarci di arrivare insomma il più possibile a diminuire o se non addirittura eliminare lo sfruttamento. Quello che mi sembra però inadatto è lo strumento immaginato, la coercizione legale, il divieto universale assoluto, innanzitutto perché non credo che possiamo essere così sicuri che nessuna donna potrebbe scegliere liberamente di fare una cosa del genere. Eliminata la pressione, eliminate le condizioni economiche disagiate per cui ci si può trovare appunto in una condizione di pressione e quindi di limitata o inesistente libertà, per semplificare il discorso spesso mi trovo a chiedere: ma se volessi farlo io, se volessi portare io avanti la gravidanza per qualcun altro, chi è che dovrebbe venirmi a vietare questa legge? Cosa. E però, quindi possibilmente anche a immaginare un reato. Ecco, io esatto, chiedo anche che cosa immaginiamo, anche perché spesso poi c'è questa strana posizione per cui sui figli già nati si dice no, naturalmente va tutto bene, ma se noi mettiamo un divieto in qualche modo impediamo ad altri di fare. Lei in un articolo recente ha proprio scritto: passare dal concetto di io non lo farei, che è una posizione personale, al nessuno dovrebbe farlo, è quel passaggio che non le piace, no? Certo, no, questo è un problema che riguarda tante questioni, tanti dibattiti, e spesso rimaniamo imprigionati in questa idea, in questo passaggio illegittimo, per cui io non farei mai, per esempio, una donazione, non ricorrerei mai a certe tecniche, e allora immagino che tutti non devono farlo. Però sono pochissimi gli stati che lo concedono, cioè se la maternità surrogata è concessa in 15 stati al mondo, molti stati sono cosiddetti del terzo mondo, diciamo così, e questo... Il Regno Unito non proprio. No, beh, sì, ecco, no, a molti degli altri stati, insomma, alcuni sono invece l'India, il Brasile, sono stati non certo come il Regno Unito, però questo pone una problematica. Se sono solo 15 Lalli, ci sarà una problematica che il legislatore nella stragrande maggioranza dei paesi si è posto. Ci sono anche paesi all'avanguardia, perché tra quei 15 poi c'è la Danimarca, sì, Canada. Sì, cioè... No, ma è chiaro, sono sempre 15, numericamente sono 15. Sono molto... Ci sono degli aspetti complicati e complessi, nessuno lo nega, e sarebbe interessante discuterne e approfondire le questioni, tant'è che insomma se lo scopo dell'appello era quello di discutere va benissimo. Come dicevo prima, discuto che si debba partire da una premessa di coercizione. Poi sulla questione di quanti stati e di come dobbiamo giudicare il numero di legislazioni permissive o no, beh, insomma, potremmo fare tanti altri esempi nel passato e nel presente che ci danno la misura di quanto non sia così facile inserire da quanti permettono a un giudizio poi morale o se giusto o sbagliato. Penso al matrimonio per tutti, penso all'eliminazione del divieto dei matrimoni interrazziali, alla fine della schiavitù. Cioè, ci sono stati dei momenti nella storia in cui pochi stati hanno portato avanti delle battaglie. Vogliamo sentire un'ascoltatrice, Grazia da Bologna, che ci ha contattato su questo tema. Grazia, buongiorno. Pronto, buongiorno. Chiamo perché appunto io volevo dire subito, sono assolutamente a favore della libertà, della scelta della donna di poter donare il suo utero per la gravidanza e la genitorialità di altre persone. Io sono mamma di due bambini, sono cristiana praticante, e proprio perché credo che invece noi donne siamo portatrici di una vita che non è nostra, perché i nostri figli sono nostri nel momento in cui noi li accudiamo e gli diamo un'educazione, ma in realtà hanno una loro identità, quindi io mi sento veramente portatrice di una vita che non è mia. Proprio per questo io dare la possibilità a un'altra persona di poter diventare genitore, ovviamente dopo un percorso, anche perché, scusi, l'ho provato un po' sulla mia pelle. Io ho un'amica che ha sofferto tantissimo facendo delle cure ormonali, è andata all'estero, è stata male. E io le ho detto, andiamo da qualche parte dove si può fare, lo so che non si può, ma io ti do il mio utero in affitto. Ecco, beh, non si può, in alcuni paesi si può. Certo, no, ci sono molti italiani che sono finiti anche sotto inchiesta per questa. Mio marito, quando gli ho detto così, mi ha mangiato di traverso, ma io ho detto, infatti, ma io di lo quale sentenza diversa? Ci sono state, però ci sono state anche delle cause. Casi come questi, grazie, fanno capire, mi è capitato di imbattermi anche a me, in tante reazioni personali, affinamenti di idee, mutamenti di convenzione, che nascono dall'imbattimento. Proprio di che cosa vuol dire. Naturalmente questo non significa che io dico sì, si deve fare, basta. No, ma no, come pure, ma sono cose talmente di percorsi individuali, per tecnica si può fare legittimo automaticamente. Però quando Chiara Lalli pone il problema, ma siete sicure, care donne che dite no, che il tutto si riduca a uno svilimento, all'asservimento, secondo me pone un problema nella giusta luce, cioè, so, sentiamo, infatti Fabrizio Giuliani, questa è l'obiezione che fa Chiara Lalli, o che fa anche Oscar Giannino, se vuole. La questione della scelta individuale? Sì, no, anche nel fatto che tutto ciò sia per forza svilimento del corpo. Ma guardi, il discorso è questo. Io non lo dico per esperienza diretta e per l'esperienza che ho maturato su questo terreno. I 9 mesi che un bambino o una bambina trascorrono dentro il corpo di una donna, attenzione a non parlare di organi come se fossero separati gli uni dagli altri. Nel dire un bambino o una bambina nella pancia della mamma vuol dire che anche dentro la sua testa si nutre di questo. Dunque pianificare la separazione o l'abbandono è una cosa che in tutta franchezza va davvero contro il senso comune, anche se fatto in totale libertà, guardi, bisognerebbe appurare fino in fondo le condizioni di questa libertà, perché guardi, a me interessa, io sono anche, insegno all'università filosofia, mi appassiona moltissimo la dimensione accademica di questo dibattito, però come legislatore io devo stare ai fatti e so che la stragrande maggioranza di questa pratica qui riguarda persone che non lo fanno, e questo basta con, mi scusi il pathos, ma l'ipocrisia, non parlo di chi sta oggi a questo tavolo, in questa discussione naturalmente, ma l'ipocrisia che sta coprendo il discorso riguardante la maggioranza delle persone è davvero straordinaria. Se io ho il 90% dei casi in cui questa pratica va fatta in condizioni di sfruttamento pesantissimo, ovuli bianchi che sono impiantati dentro i corpi di donne indiane, questa è una cosa che ha a che vedere con una lesione dei diritti umani che interroga tutti, e o la si pone al punto giusto, cioè si dice che in mancanza di una legislazione, questo in mancanza di una legislazione, soprattutto anche di una presa di posizione, questo discorso va a ledere anche i diritti di chi nasce, perché mi scusi, il discorso anche del testo, cioè del bimbo e della bimba, non è proprio così irrilevante. Allora, pensare l'adozione quando, cioè il fatto che i bambini, pensare ai bambini quando sono in qualche modo costretti ad essere separati dai genitori per ragioni che sono accidentali, si è pensato all'adozione proprio perché qualcosa interrompe in modo drammatico la relazione tra madre e padre e bambino. Dal momento in cui invece questo viene pianificato, ma non sarà il caso che ci si interroga tutti, e che questo non ha soltanto a che vedere con il fatto che qualcuna indipendentemente possa dire sì, lo faccio. E io a quella qualcuna dico naturalmente che se è a se è dentro delle condizioni di totale gratuità, e io personalmente, moralmente, non ho alcun tipo di obiezione, ma come faccio a non pensare però vietandola lei ce l'ha l'obiezione, e come legislatore glielo impedisce. Questo è poi il punto di fondo. Comunque il dibattito è molto profondo, lo riaffronteremo. Ecco, per il momento ci dobbiamo fermare qui, ringraziando tutti coloro che sono intervenuti, e ricordiamo che il governo stanzia anche 1.000 euro per comprarsi uno strumento. Bisogna suonare le Alisis. Oltre ai 5 giorni, 1.000 euro per uno strumento. Chissà che cos'altro ci regala prima che la legge di stabilità venga approvata. Dai, lo scopriremo solo vivendo. A domani.